Ciao, sono Pamela Villoresi. Sai che ogni minuto nel mondo una persona viene colpita dalla lebbra? Chiama l'AIFO al numero verde 800-55-0303. Con solo 15 euro potrai sostenere la terapia mensile per curarla. E ricorda, in molte piazze italiane il 30 gennaio troverai il miele della solidarietà. Contribuirai così alla cura dei malati di lebbra dell'Africa. La lebbra continua a colpire. La tua solidarietà può sconfiggerla.